vediamo per caso, ci vediamo per strada, ci vediamo per strada, ci mettiamo a parlare. Se non sbaglio pioveva, oppure c'era il sole. Se non sbaglio non pioveva, oppure c'era il sole. Che rimango a fare per restare a guardare. Se non fosse per le donne, per il lavoro, se non fosse per il pallone. Poi ho aperto la porta di casa. Poi ho chiuso la porta di casa e sono messo a guardare. Parlo di una come te. Parlo di una come te. Parlo di una come te. Parlo di una come te. L'ho vista scendere le scale e guardarti attorno e vestirti di rosso, di bianco e di rosso. Le tue orecchie che più piccole sono e più sono io che mi guardo attorno. Adesso vivo in città, ho parlato agli amici, ho salutato la gente, ma di queste parole non mi chiedere niente. Ci vediamo al parcheggio, fuori dall'autostrada, ricorda i soldi. Riportami l'auto. Se abbandoni qualcuno e te ne lavi le mani, non puoi essere immune dai cattivi pensieri. Parlo di una come te. Parlo di una come te. Parlo di una come te. Parlo di una come te. Ti ho visto scendere le scale e guardarti attorno, vestirti di rosso, di bianco e di rosso. Le tue orecchie le più piccole sono, e più sono io, e mi guardo attorno.